L-ai già sparata, da, da quando l'hai sparata sta sigla? Fine, 10 secondi dalla fine. È ora. Anzi, è in ritardo perché sono 7 e 4. Devo aprire la telecamera, non si vede. Ah, ecco. Ecco, ora sì, va bene. Saluta. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi. Com'è andata? Bene, bene. Io sono Briaco Fradish, voi? No. Perché dove eri? A Montalcino. Si è fatto una trasferta balurda. Mercoledì te giorno di svago a Gugu, ragazzi, almeno mercoledì datemelo. Mercoledì di ferie. Avete bevuto? Avete bevuto? Oddio. Beh, Montalcino non credo. Non credo acqua tonica, però. Bindo sta giocando con le Lego intanto. Ciao Bindo. Ciao Bindo. Bellissimo. Ciao. Dai, un time rock and roll, questa è Radio F, siamo sempre noi. Io sono il Patro, accanto a me il Luke. Eccolo. Il Nanno. Sì, ciao. Entusiasmo. Potevi stare a casa, Dalla regia il nostro tecnico biondo. È un classico. E l'altro tecnico, Bindo. È un classicone. Dai, iniziamo subito con i compleanni. Un compleanno. Bradley Delp. Piccola parentesi. Vero, manco a farla apposta. Sì, grazie. Cioè, interrompiamo subito il patrullo. Sì, ovvio. Neanche a farla apposta. Noi avevamo messo nel contest esatto, bravo. Proprio i Boston, no? Bravissimo. E poi caso ha voluto che abbiamo trovato che era un compleanno di un membro. No, più che altro il caso ha voluto che le canzoni del Boston. Sì, ciao. Le canzoni del contest pareggiassero entrambe. No, di conseguenza, sì. No, perché ho ricambiato il voto io. Ma che imbecille. Così. Esatto. Guarda, non lo dire perché maledetto. Guarda, te l'hai fatto anche prima, l'hai fatto, Quando? 2 giorni fa. Posso finire? Okay. Posso iniziare? Posso? Prego. Vado. I colpi che state sentendo sono quelli degli Hook sul tavolo. Deve sempre fare di testa sua, sempre. Puntualmente sbaglia, sempre. Vabbè. Dopo comunque voglio parlare appunto del contest perché hai messo una canzone che ha quasi surclassato gli altri. Però... Allora ragazzi, qui bisogna parlare di cose serie. Allora, io questa volta ho messo una canzone per dire vabbè, ci gioco sopra, metto una canzone mi faccio vincere. Per virgolette scherzosa, dico non vincerò. Sono arrivato secondo o se no terzo. A pari merito con me. Con i Boston. Cioè addirittura con 7 voti. Sì. Sei voti. Voti. Grande Loretta Goggi. Grande Loretta. Dai, continuiamo. Brad Delp è nato a Denver il 12 giugno del 1951. È stato famoso per essere stato il cantante appunto storico di Boston. Il 9 marzo del 2007 ad Atkinson, Brad viene trovato morto nella sua abitazione. La causa della morte, secondo il rapporto della polizia, è intossicazione da monossido di carbonio. Successivamente, purtroppo, infatti, si parlerà di suicidio. Vogliamo ricordarlo con appunto More Than a Feeling, singolo del 1976 estratto dal loro primo album Boston. La canzone è stata inserita nel famoso gioco musicale Guitar Hero, bellissimo. Ci abbiamo giocato tutti tra altre cose. E nel film d'animazione Madagascar 2. È stata anche usata per pubblicare una stagione della celebre serie televisiva Scraps. Bellissima anche questa, io l'adoro. Vabbè. Eh sì, molto. Bellissima. Nel 2004 la rivista Rolling Stones ha collocato il brano al 500° posto nella sua lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Quindi purtroppo l'ultimo posto, ma comunque l'importante è esserci. Esatto, vorrei anche dire. More Than a Feeling, Boston. Yeah. Benissimo ragazzi, questa era More Than a Feeling dei Boston. Tanto vi dobbiamo dire che dietro le quinte c'è il super ospite di oggi. È vero, sta aspettando dietro sta le quinte. Sta aspettando dietro le quinte, è in fermento, è una vecchia colonna di Radio F. Sì, esatto. Cioè vecchia fra virgolette poi. Perché no, è giovane, via. Sì, infatti. 84 anni. No, scherzo. Nana, hey, kiss him, goodbye. Oh. È una canzone scritta e registrata da Polleca, Gary De Carlo e Dale Fresher, attribuita a una band allora fittizia chiamata Vapor. Il singolo è stato rilasciato sotto la casa discografica Mercury ed è diventato il numero uno nella Billboard Hot 100 dalla fine del 1969 ed è rimasto in classifica fino ai primi mesi del 1970. Il ritornello della canzone rimane ben noto ed è spesso usato come un canto di massa. Scusate, il vino ancora è in fermento. Buono. Come canto di massa in molti eventi sportivi. La curiosità più stramba è questa: a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, la canzone è stata posta sulla lista post 9/11 dei titoli di film o canzoni inappropriati. Chissà perché. Non mi chiedete perché. Era un titolo inappropriato? Questo. Sì, come fosse un titolo terroristico, una cosa del genere. Ma dici. Non gli piaceva. Sono americani, lo sai, sono strani. Vabbè. Comunque, la canzone poi è stata posta. La canzone ha un posto di rilievo nel 2000. Il regista Boaz Yakin la inserisce nella pellicola Il sapore della vittoria. La canzone poi è stata cantata in Lafayette Park durante le celebrazioni della morte di Osama Bin Laden. Prima è terroristica e poi diventa poi dopo una volta che l'hanno ammazzato. Sì, giustamente. Hai visto. Della serie Affronta i tuoi demoni, comunque vabbè. Snoop Dogg nei suoi concerti spesso chiude il suo show cantando e facendo eco con la folla che canta na na na na na na na na Snoop Dogg. Steam. Nano ha detto guarda i sputi, che guardi? Gli spooler. Ah, i spooler. I sfumini, no? Sì, vabbè, prima fa il ganzo, spooler e poi sfumini. Allora. Sfumini, in italiano sfumini. È sfumini, va bene. Steam, na e yay, kiss him, goodbye. Adesso parliamo di Get Back, una canzone dei Beatles scritta da John Lennon e Paul McCartney. La canzone originale è stata pubblicata come singolo l'11 aprile del 69 ed è stata eseguita dai Beatles con Billy Preston. Venne eseguita per la prima volta nello speciale concerto tenutosi sopra il tetto del loro quartier generale. Venne incisa in un periodo di profondi dissidi tra i componenti della band. Poco dopo è divenuto il brano di chiusura di Let It Be, album del 70, che è stato l'ultimo album dei Beatles a essere pubblicato prima che il gruppo si dividesse. Il singolo ha raggiunto la posizione numero 1 in Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Francia, Germania Ovest e Messico. Bella. I Beatles eseguirono Get Back insieme ad altre canzoni come parte del celebre concerto sul tetto della Apple, loro casa discografica, il 30 gennaio del 69. Get Back venne suonata per 3 volte. La terza e ultima volta fu interrotta dall'arrivo della polizia, che era stata chiamata dagli impiegati delle aziende vicine. Dopo che gli agenti parlarono con Mal Evans, minacciando di arrestare la band, lui staccò la spina degli amplificatori di Lennon e Harrison. Fu durante questo momento che McCartney improvvisò il verso: siete andati ancora a suonare sul tetto e questo non è bello, sapete che non fa piacere alla vostra mamma, si arrabbia, vi farà arrestare tutti, tornate indietro. Get back. Get back. Nessuna delle versioni suonate sul tetto apparve mai integralmente sul disco, sebbene nel film Let It Be sia possibile ascoltarne una versione rimaneggiata in studio. Al fine dell'ultima esecuzione del brano sul tetto, il pubblico applaude McCartney. E McCartney stesso dice thanks Mo in risposta all'applauso entusiasta di Maureen Starkley. Phil Spector usò queste frasi per appiccicarle sul finale della versione in studio della canzone, per appuntare la versione che appare sull'album Let It Be, che appunto differisce lievemente da quella del singolo. Così facendo diede al brano l'ingannevole atmosfera di un'esibizione dal vivo. Beatles, Get Back. Questi erano i Beatles, Get Back. Communication Breakdown è una canzone del gruppo Led Zeppelin. Sorpresa. Fa parte delle tracce. Scusate, posso? Ho deciso di fare questa entrata così all'improvviso. Il tecnico Bindo si è ripresentato di ogni tanto, sì, ogni tanto mi sveglio dal mio cantuccio lì dietro. Queste prese di posizione da parte e chiedo tua. Se mi fanno leggere. Mi il patro mi ha accordato. Beh, saluta, grazie, presentati patro. Almeno, prego. Salve a tutti, sono il patro. No, sono io. Va bene, dai, posso? Continuo? Vado avanti. Allora, dice... Scusa, se sei il patro ti interrompiamo di continuo. Lo sapevo, no? No, quello non ti rompete dopo il patro. Communication Breakdown, dicevo appunto, è una canzone del gruppo Led Zeppelin. Fa parte delle tracce del loro album di debutto, Led Zeppelin. Ed è stato pubblicato anche nel lato B del singolo Good Times, Bad Times. Non riesco a comunicare. Ehi ragazza, fermati. Ehi ragazza, mi rovinerai. Non so cosa mi piace di te, ma mi piace un sacco. Non vuoi che ti trattenga. Fammi provare il tuo amorevole fascino. Non riesco a comunicare, è sempre lo stesso. Sto avendo un esaurimento nervoso, mi fai diventare pazzo. Led Zeppelin, Communication Breakdown. Eccoci. Che canzone, ragazzi. Che canzone. Lo introduciamo. Che si fa? Si introduce. Sì, dai. Chiamiamo l'ospitone. Allora, signor ospite. Allora, prima prendo la parola io, dai. Come editore, abbiamo in studio un caro amico che, tra l'altro, ritornerà nel palinsesto di settembre. E a prescindere dal vostro ingresso, che serve a farvi perfezionare. Non so adesso vai al nostro caro amico, chi lo lancia? Claudio Biagi. Posso dirlo? Buonasera. Che voce. Ragazzi, buonasera. Io non ho veramente parole per... ciao, sto zitto. No, nel senso che è un'emozione ritornare qui in questi studi, veramente. Sono diversi anni. Infatti sono invecchiato, ho messo la pancia, barba lunga, cioè, bastone. Cioè, c'ho tutto, c'ho tutti i connotati. E quindi, non lo so, che si fa in questi casi? Questi casi lanciamo il contest, ovvero è il concorso che proponiamo su Facebook dove la gente vota la sua canzone preferita. Io sono proprio all'oscuro di tutto, quindi io so solo quindi inseritemi il primo giorno di scuola elementare, la prima elementare. Allora, diciamo le canzoni che abbiamo scelto. Poi sì, secondo te ci dirai quella che secondo te può aver vinto. Secondo me così, al buio, così, al già buio, subito a botta. Io questa ho scelto Loretta Goggi, Maledetta Primavera, che è di un rock. Okay. Vabbè, era una scommessa. Fatemi la lista un attimo, vediamo un po'. Maledetta Primavera, ok. Sì, sì, vai. Io avevo messo i Boston con More Than a Feeling. Sì, padrone. Io avevo i Rem con Losing My Religion. Ok. Valerio. Vasco Rossi con Selly. Questa era il Masa. Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Secondo te, Claudio, chi ha vinto? Così, su dei piedi. Aiuto. Allora, io sono un vasco rossiano per eccellenza, ho cresciuto tanta gente a pane vasco. Non dire Vasco Rossi. No, però su Maledetta Primavera io ho dei ricordi, quindi io farei, io non lo so, unanimità, io voto per Maledetta Primavera. Vicino, cioè, io voto, vicino, diciamo. Vicino. E non è che voto, io per me mi lega personalmente. Esatto, io non lo sai, ma pur essendo Loretta sono arrivato secondo con Maledetta Primavera. Chi ha vinto? Perché già si sa. I Rem come sono? I Rem sono arrivati primi. Hanno vinto i Rem. Quindi Losing My Religion. Quindi te la facciamo lanciare. A me? Chiaro, ti abbiamo chiamato a posto. Aiuto. Preparati. Signore e signori, io ho il piacere di lanciare la prima in assoluto canzone che è stata scelta da voi. In questo caso, a malincuore non è Maledetta Primavera, ma chi erano? Ho visto voti. Assolutamente, no, cioè Loretta, assolutamente è una bellissima. Losing My Religion. Questo era il gobbo. E i Rem con Losing My Religion. It's bigger. Il Rem con Losing My Religion. Allora, adesso prima di continuare con la storia del rock del 69, facciamo un saluto a Claudio. Mi ero un attimo perso in... scusate ragazzi, mi ero un attimo perso nel riguardare tutto lo studio, tutte le cose, i vinili vecchi, santi, cari vinili che hanno accompagnato per tanti tanti anni. Mamma mia, veramente un tuffo nella storia. Grazie Paolo. No, è veramente una cosa indescrivibile. Ci ho passato tanti anni qui dentro, quindi noi ci salutiamo perché te probabilmente sicuramente c'è un progetto, nuovo programma. È una sorpresa, perché era una sorpresa fino a poco ora, qualche minuto fa. Esatto, no, comunque sì, da tanto tempo, però c'era tanta voglia di ritornare, tanta voglia di fare un tuffo nel passato, e comunque tanta voglia di rifare radio. Quindi io sono contentissimo, grazie ragazzi di questa opportunità che mi avete dato, grazie dell'ospitalità. Ovvio ragazzi, potete andare via, io rimango a fare continuare il programma. Ciao, io fino a mezzanotte rimango. Paolo, posso? Oddio mio, che bellezza questo microfono, ragazzi, veramente grazie di cuore, grazie a te, Claudio. Buon proseguimento, ciao Claudio. E continuiamo la nostra storia con Down on the Corner, che è una canzone dei Creedence Clearwater Revival. È apparso sul loro quarto album in studio, Willie and the Poor Boys, ovvero Willie e i poveri ragazzi, del 1969. La canzone racconta la storia della fiction Willie e i poveri ragazzi, per l'appunto, e di come giocano agli angoli delle strade per allietare la gente e chiedere monetine. La canzone ha raggiunto la posizione numero 3 della Hot 100 il 20 dicembre del 1969. Che capo grosso, ma dove? Siete che c'hai capo grosso, sì, c'hai piccino, tutto cervello. Nanno si è improvvisato tecnico, attenzione. Non fa niente. Beh, come quello che c'era prima. Ecco di nuovo l'infiltrato, sono di nuovo io. Sarà il posto, e questi erano i Creedence Clearwater Revival con Down of the Corner. Midnight Rambler è una canzone della Roccia Banda Rolling Stone. La Roccia Banda. Vabbè, della grande banda dei Rolling Stones. Dei Rolling Stone, insomma. Ero Ciabanca, l'ho scritto. Bene. Dei Rolling Stones. Ma te lo pubblicata nel... È una trappola. Sì. Te lo spieghiamo. Vabbè, grazie. È tradotto da Google. Capito? Ci sono cascato, scusate. Maledetto Google. Accidenti. Che è un grande motore di ricerca. Infatti. Assolutamente. Grandissimo. Bene, allora, dicevamo, questi Rolling Stones. Midnight Rambler è una canzone, appunto, dei Rolling Stones, pubblicata nel loro album Let It Be. Keith Richards ha chiamato il brano un blues di opera. Sempre Richards ha definito la canzone come la quintessenza del lavoro di Jagger Richards, dichiarando nel 2012 che nessuno altro aveva potuto scrivere quella canzone. Sulla composizione della canzone, Mick Jagger ha detto in un'intervista del 1995 per la rivista Rolling Stones: questa è una canzone che Keith e io abbiamo davvero scritto insieme. Eravamo in vacanza in Italia, in questa bellissima città collinare, Positano, per un paio di notti, perché dovevamo scrivere una canzone oscura in questo bellissimo posto, pieno sole. Io davvero non lo so. Sai cosa? Manca un po' la punteggiatura, ragazzi, scusate. Le virgole. Perché dovremmo scrivere una canzone oscura in questo bellissimo posto in pieno di sole? Io davvero non lo so. Ora tornavo. Abbiamo scritto tutto lì. Giocavamo con l'armonica in questi piccoli caffè e c'era Kate con la chitarra. Alla domanda sul brano in un'intervista nel 1971 con Rolling Stone Magazine, Richards ha detto: di solito quando si scrive è Mick che va fuori su qualcosa e bisogna lasciarlo volare su di esso. Per scrivere una canzone basta lasciarla rotolare fuori, ascoltarla e iniziare a salire con certe parole che stanno arrivando. Un sacco di gente ancora si lamenta che non possono sentire la voce nel modo corretto. Se le parole vengono attraverso la concentrazione e l'ispirazione, è un bene, perché comunque può significare mille cose diverse per ognuno. Rolling Stones, Midnight Ramblers. Did you hear about the Midnight Ramblers? Everybody got to go. Did you hear about the Midnight Ramblers? You wanna shut the kitchen door. Gambler, did you see him jump the garden wall? don't do that. Don't do that. Don't do that. Fuma. Sfumiamo e continuiamo con Billy Joe Thomas. Per gli amici, BJ ha sempre detto che la sua fortuna è sempre stata trovarsi al posto giusto nel momento giusto, ma ha dimenticato di sottolineare la sua fortuna più grande, che è stata la laringite. Che bello. Poi ora vi spiego perché. Bart Bacharach. Detto, io vi amo. E sempre io questi nomi improbabili. Come mai tu con tutti a te? Ma chissà perché. Chi è? Vabbè, comunque, Bart Bacharach aveva composto nel 1969 la colonna sonora di Butch Cassidy, compreso il brano guida Raindrops, Keep Falling on My Head, che doveva accompagnare la famosa scena in cui Paul Newman e Catherine Ross si divertivano in bicicletta. Leggenda vuole che la canzone fosse stata prima offerta a Bob Dylan, che aveva gradito il film, ma era un po' dubbioso sul tono molto pop della musica. Va detto però che il signor Bacharach ha sempre smentito questa storia. Vero è che Raindrops era stata proposta a Ray Stevens e solo dopo il suo rifiuto fu assegnata a BJ Thomas. C'era però un problema: BJ aveva una forte laringite e il medico gli aveva sconsigliato di cantare. Lui lo aveva fatto ugualmente e alla quinta ripresa il nostro amico Bart si dichiarò soddisfatto. Bart Bacharach. Bacharach, lo dico un'altra volta, almeno siete contenti. Se ricapita almeno lo sai ancora meglio. Ma lo fate capitare, sono sicuro. Comunque, lo era ancora di più un altro dirigente della 20th Century Fox, entusiasta che BJ avesse imitato la voce un po' rauca di Paul Newman. Ma non era un'imitazione, era appunto la laringite. Grazie anche a questa laringite, BJ Thomas vinse il primo ed unico Oscar della sua carriera. Guarda un po' te la vita, non male. Raindrops Keep Falling on My Head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they Sta lei? Sì, sono di nuovo io, l'infiltrato. E questo era Billy Joe Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Hawaii Five-O è un singolo strumentale del gruppo The Ventures. È stato rilasciato nel 1969 su etichetta Liberty Records e raggiunse la posizione numero 11 nella Billboard Top 100, rimanendoci per 24 settimane. L'album è stato certificato disco d'oro il 21 luglio del 1971 ed è stato azionato dall'omonimo singolo di successo e che è stato anche inserito nel film 50 volte il primo bacio. Fantastico. E adesso Ventures Hawaii Five-O. Ventures Hawaii Five-O, tutta strumentale, bella, eh? Velocissima, velocissima. Poi adesso, Patru, passiamo alla nostra rubrica citazioni, giusto? Esatto, abbiamo finito la storia del rock, la seconda parte del 1969. Citazioni del rock and roll. Citazioni. Inizio io, giusto? Sì, sei quello rosso, quindi sì. Sono quello rosso, sì. Ok, non perché ho preso il sole. No, perché nella scaletta è scritto il rosso. Nessuno vuole stare con me perché io sono innamorata del rock and roll. Io sono una suora, è inutile chiedermi con chi vado a letto. Ho una forte sessualità ma la sfogo nella musica. Il mio sogno è godere sul palco. Gianna Nannini. Cercherò, mi sono sempre detta, cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiede, chiede, chiede. Fammi sognare. si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi. America, Gianna Nannini, tra altre cose storica canzone di Radio F, proprio storica. Sì, vero. E adesso, seconda citazione, a chi sta? Sta a me, oh. E dirò la frase che ha detto Debbie Harry, cantante dei Blondie. Sento una delle cose, scusate, ho sbagliato. Ti sei già perso, due parole. Ho sbagliato scaletta, vabbè. Sento che una delle cose che ho apportato da rock and roll era quel genere di glamour, immagine da movie star, ed è questo che mi ha sempre affascinato. Ho sempre voluto essere quella bionda donna raggiante da film. È stato come qualcosa che si è gettato automaticamente ai miei piedi e ho colto la palla al balzo. Summer. Questi erano i Blondi, Colmi, di nuovo l'infiltrato con voi. Ha provato a cucinare due volte e non sto almeno scherzando. È l'infiltrato? Sì, sorpresa. Il tecnico Bindo, cioè tecnico, adesso tecnico, sei speaker, sì, Bindo. Lo speaker improvvisato, tecnico Bindo, piacerà a tutti. L'infiltrato. Ha provato a cucinare due volte e non sto scherzando, per due volte abbiamo dovuto chiamare i pompieri, lo giuro sulla mia vita, due volte. Questo è quello che ha detto il leader dei Coldplay, Chris Martin, riferendosi a sua moglie, la celebre Pepper Potts, alias Gwyneth Paltrow, che nella vita reale non è la moglie di Tony Stark, detto Iron Man. E quindi speriamo che non sia geloso. E adesso i Coldplay, The Scientist, vai Jarvis. Nobody said it was easy. Vai, Nanno. Ah, io? Non ho la scaletta. Aspetta. Come non hai la scaletta? Eccola. Neanch'io, guarda, ce l'ho. Il Coldplay anche perché... con The Scientist. Perché abbiamo finito. Abbiamo finito, sì. Tra altre cose, il Bindi ha finito molto male. Ha finito perché praticamente... Sì, al contrario, in realtà, ha provato a cucinare il cantante dei Coldplay. Che non sono moglie, non il contrario. Moglie, quindi è altro. Okay. Infatti, hai detto, ma che hai detto? E vabbè. Appunto, sono infiltrato, non ci sta. Rettifichiamo, quindi. È un po' come il nanno a calcetto, la talpa lui. Sì, per esattamente. Che lo fa finta di sbagliare a parare la palla. E già. Dopo ci sta le controprove. Dopo ci vabbè, sta. Vediamo. Va dopo. Bene. Allora, dai. Abbiamo finito, sono le 8.06. Sì, puntuali. Vabbè, sì, siamo stati puntuali. Abbastanza puntuali. E ricordiamo come tutte le settimane, sempre pagina Facebook, Old Time Rock and Roll Radio F Valdichiana. Il contest che fra due giorni metteremo, quindi le cinque canzoni che noi scegliamo, voi potete votare, la vincente la premieremo mettendo come, come tutte le settimane. E anche... sei imparata bene sta parte, sì, c'è da dire, sì, ormai là. La chiusura ormai diciamo è il mio. Vabbè. E anche il il podcast. Il podcast domani caricheremo sempre sulla pagina Facebook Old Time Rock and Roll Radio F Valdichiana. Quindi salutiamo voi, salutiamo voi, i tecnici ovunque dovunque. Ciao dall'infiltrato. Salutiamo il Patru, salutiamo il Luke e salutatemi anche a me. Nanno. Ciao. A settimana prossima, ciao. Ciao.